Όταν λαμπιάει η φωμή μου, είναι λίγη πριτσέσα ή κάτσα. Piccolo coro dell'Antoniano, il pulcino ballerino, secchino d'oro, sigle fidi con le occhi gruppo punta notte, fidi, fridi tutri tutto con le fai, sapere tutri tutto con le fai, fidi tutri tutto con le fai, fidi tutri tutto con le fai, sapere tutri tutri tutto con le fai, fidi tutri tutto con le fai, fidi tutri tutto con le fai. Fidi tu tu con la mani credi, fidi tu tu con la mani credi, fidi tu tu con la mani credi, hai fare fare fare con me, la ninci mi c'è lì, hai fare fare fare con me, la ninci mi c'è lì, o balle o cavallo! Coro dell'Antoniano, pulcino, ballino, cecchino d'o sigle chi di quelle pochi, tu con te fidi tu, tri tu, tu come le fai sape tu, tri tu, tu come fai ma paoli, già tu di chi, ma con i sciai per i spari con tu una valente porre ma con una valente porre ma con una valente a fare chiare con i scialegge fidi ori di valo valente. Fidi tutri tutto come le fai, fai tutri tutto come le fai, fidi tutri tutto come le fai, ormi che orte mi sai, un po' si spalla anche la famiglia, o che ricci anche i, per non del rio balle o cavallo. O balle o cavallo. Vidi tutti tu trovo con le fai, la tia se va con te lei, vidi spiogge non trai, sono rosse con le galai, la te cantare dal cate dai, vidi tutti tu trovo con le fai, quando vei, quando veri sai, non ricagliare con la grigiei, o per un pari per la grigiei, ma per presso fai con qua di gay, ma con la tia sempre mangi di gay, la tia per se fai con la grigiei.